jetzt mit normalem Motorrad, keine Ahnung, dritte Gang durchs Dorf fährst, dann merkst du, dass der Motor gar nicht gut läuft. Da meinst du, da wäre irgendwas am Motor, da wird irgendwas nicht stimmen. Das sind die Aussätze. Das Großdrehzahlmotor, der macht ja dein Körper und dein Kopf praktisch nach hinten zur Position, damit dir die Arme nicht abfallen beim Gas geben. Der hat gesagt, das ist so krank, sowas. Frag dich jetzt nicht, wie das Ding heißt. Du kannst ihn beschreiben. Das wäre jetzt wie die Mode, aber das, nee. Ehrlich, die sieht wirklich, das sieht schon sehr interessant aus. Lasciato agli altri, che se lo voleva comprare, se lo compra fuori, di un allenatore era. Quindi mi tengo qua dove c'ho adesso e vabbè, basta, basta, e ce l'è anche per i pozzi, ce l'è. Allo zio, ve ne fai i buchi. Aspetta un attimo, sto cercando uno straccetto. Ehi. Giovanna, ci sei, Giovanna. Giovanna, metto, ci stiamo a fare una mezz'oretta, ma l'ho detto quando era a casa sua, quindi io sono qua d'ascolto, non ti preoccupare. Giovanna, Giovanna, e ho sentito anche io arrivo anche qua. E beh, già lo credo che arriva lì, c'è il lineare, c'è quello che è usato tutto a casa tua, quello piccolo. Arriva, arriva. È un bel lineare quello, lo spirito è un bel lineare. È un bel lineare, la verità. Adesso spero di recuperare qualche cosa. Se incontro i corsi, i superstiti della buonanima di buonanima, ma quello che era, già lo sai. Del corvo che è morto, quindi. Ebbene, Ottamburi. Ah, morto il corvo, ciao. Egli è morto un mesetto fa, è morto da solo un cane, è morto. 3 giorni, se ne sono accorti così. I carabinieri sentivano questa puzza. Gli hanno suonato la finestra e sono andati dentro. L'hanno raccolto e si sono portato via. Infatti adesso c'è i sigilli nella porta e il lucchetto dove c'era il coso. Invece vita vecchia, lo sai, dove c'era quel garage. Di vero, il suo casino. E appunto per quello, dove c'era quel casino, sì, bravo. Adesso bisogna che se si va a buscare il cugino, sarà molto difficile che tocca la roba a lui, perché lì c'è un togliaio, c'è tra fratelli, cioè lui e l'altro sono morti, è rimasto il fratello pazzo e la cognata che è a Milano, quindi adesso penso che scenderà senz'altro a vendersi tutto, quindi non fa altro che prendere anche ruspa e sollevare tutto e buttarci tutto in qualche cassoletto di quelli come hanno fatto qua di fronte quando ci era accorso il figlio di Scarpa. Ho conosciuto quell'uomo, ero appena radiomatorio, sono andato alla fiera di Genova, ha fatto i soldi a palate, vendeva valvole, vendeva roba elettronica, componentistica elettronica, allucinante, sto parlando del 1995-96, c'aveva lo stand pieno di gente, aveva un momento gas diventato. Già lo so già, da quando è entrato in Sardegna, la Milano è stato Sardegna, si è rovinato. Vabbè, già ne ha bruciato gente, la verità, perché quando aspetto che 3-4 radio private li ha bruciati tutti, li ha bruciati, si ha intascato i soldi e lo volevano ammazzare a loro. Se non trovavo il microfono, lo so, però era un bravo, aveva un sacco di roba bella. Sì, bravo, era bravo in quel coso lì, trasmissione di ricezione era veramente bravo, c'era tutto, trasmettitori, ricevitori, antenne per trasmettere in TV, di tutto va via a Santa Maria. Adesso non lo so, come finirà, se andrà tutto all'asta, cosa cazzo ne so, penso che vada tutto all'asta senz'altro. Perché lì adesso dovevano liberare tutto l'appartamento, è un togliere quell'appartamento, se poteva manco entrare. mezzo lì tutto c'era, andava, ritirava la da terra, se la sistemava, la vendeva, era fatto così, capito? La sera si richiudeva lì invece Vita Vecchia e cominciava a riparare la bacinese, casa, poi tutto un casino era, casa, quanta voglia, ma perché non ci butti tutto, gli ho detto, no, non ci butto niente io, casa, almeno dai qualche cosa a qualcuno che ne ha bisogno di questa roba qua, no, non devi entrare nessuno, mi diceva, allora ho detto, te devo dire, cosa vuol dire, dice, qui ci sono milioni, e cazzo milioni, non vale più neanche una lira questa roba qui, cazzo sta dicendo, venditi tutto, e dove non ti diverti, nulla, no, non ho mai avuto l'ascolto. Purtroppo non so che finale farà tutta quella roba, perché era dividere, c'è il giudice in mezzo, hai capito, per dividere tutto, quindi è un casino, è veramente un casino. Ok, dai. È un bello carino. No, sono Luca, sono Lupro. Qua c'è Duplo. Ciao Claudio, buonasera, ciao Alessio. Gianni Duplo Fetta. Gianni Duplo. Ho detto, come mai nottambuli oggi? No, io sono qua, sto facendo cose in radio, poi senti tanto meno, sono entrato a salutare. Bene meda. Ah, io sono entrato adesso. Oia, tutto bene, sì? Già, meglio di così non si può. Mezzo urgare. Avanti, Ale. Tutto bene, non ti preoccupare. Già siamo tranquilli. Figurati. Io sono entrato, ho acceso e ho sentito a voi, dai. Non mi trattengo molto, comunque. Ma che ti sei abbassato avanti in radio? Non ti ho capito. Ti sei abbassato il radio adesso. Vabbè, prova un po', fa un passaggio adesso. 1, 2, 3. Ah, ecco, adesso vai bene. Evidentemente sarà perché entri poco, o vai in pescheteria a prendere un po' di pesci. Vabbè, sicuramente sarà il PTT sporco, dai. Non sto entrando quasi per niente, quindi magari, sai, oppure magari la batteria scarica il microfono, già ce l'ho quella buona nuova, dai. No, non è questione di batteria, no, è questione di potenziometro, più che altro, devi schiacciare bene, c'è lo Twitter che si sta facendo verde, quindi sfruttali appena appena il CVC si è a posto. Andavè, dai, già... Lo apriamo e gli diamo una bella revisionata. Oh, yeah. Allora, vai, avanti, cra. Ehi, qua sogno. Come mi ricevi le tue nuove latitudini? Ah, grande. 9, 10, radio 5, 6. Bene meda. Oh, yeah. Che ne so, 22:42. Dai ragazzi, sono entrato giusto a salutarvi, ho fatto un passaggio proprio alla Speedy Gonzales. Dai, salutoni, buona prosecuzione di serata e buonanotte, dai, ci sentiamo un altro momento, io vado a tirare una sussa alla Dramassa, ok? Sì, dillo a tutti, secondo me tu stai andando su internet, io per io ci sono le ragazze, capito? Di Cuba e quindi stanno cercando uomini per poter portare qua. Poi lasciami lo gabo. Non ce n'è tripa per gatti. Sono andato nel capeteggiavate, tu c'era. Avanti ieri sono stato 2 ore e mezzo con una ragazza da Londra, figurati. Di tutto ha fatto per potermi fare le, come ti posso spendere di 50 euro per partecipare su Amazon. E gli ho detto, guarda, adesso ho detto, non c'è tempo, questo momento ho detto, devo uscire, ho detto, ci sentiamo domani, cazzo, mi ha fatto stamattina 10 telefonate, mi ha fatto. Stasera mi ha detto, ma non è che mi stai prendendo in giro, ho detto, guarda, io ho detto, non ti prendo in giro, ho detto, e tu sono sotto al tetto, ho detto, sto installando, ho detto, l'antenna, quella, sopra l'hotel. studiatele nuove, no, quelle per i 5G, ho detto rispondere, se no già ci scendo giù. No, mi ha detto, allora va bene, non ti preoccupare, chiamami tu, mi raccomando, non ti preoccupare, qualsiasi ora, mi ha detto. Lui cerca di attaccare il bottone, dai, già ci compresa, dai, ma no, come non attacca? No, vabbè, si può capire, cioè non ce n'è, dai. Ragazzi, dai, vi saluto, buona nottata, dai, ci sentiamo alle prossime, continuate col vostro acquisto, dai. Dai, ci sentiamo, buonanotte a tutti, bye bye. Yeah, ciao, a domani, no? Stammi bene, buon corretto e buon tutto. Ciao, già alle prossime, ci sentiamo domani, ciao, Antonio, anch'io chiudo, che è tardi, ciao. Yeah, ciao, a domani, no? Buonanotte e buon tutto anche a te. Ciao.